I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Ieri sono arrivati tre dati: fatturato dell'industria, ordinativi ed esportazioni, che fanno suonare più di un campanello d'allarme sulle prospettive economiche per i prossimi mesi. Partiamo dal fatturato industriale. Il dato Istat di marzo, che mostra un calo del 3,6% su base annua, rappresenta il peggior risultato dall'agosto del 2013. L'arretramento si vede anche nel confronto mensile. Che cosa è successo? Beh, è successo che per la prima volta dopo molti mesi è in difficoltà il fatturato del settore automobilistico, che invece da un po' di tempo trainava tutta la produzione industriale. Basti ricordare che nel 2015 ben il 70% della crescita dei ricavi industriali proveniva proprio dagli autoveicoli. Invece a marzo i ricavi legati all'auto sono arretrati su base annua del 6,5%. Altri segnali poco brillanti arrivano anche guardando i prossimi mesi, perché l'andamento degli ordini, cioè gli impegni produttivi futuri delle imprese, risulta in calo su base mensile del 3,3%, soprattutto per la frenata che arriva dagli ordinativi esteri. E proprio sul fronte estero arriva la terza incognita, il terzo dato negativo, con la frenata delle esportazioni, dove certamente pesano le difficoltà del commercio internazionale e più in generale le difficoltà dei paesi emergenti. In quattro mesi gli incassi delle aziende sui mercati extra UE si sono ridotti del 4,8%, che significa quasi 3 miliardi di affari in meno. Beh, per recuperare servirà una forte accelerazione nei prossimi mesi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. L'operazione di riassetto sul capitale di Poste Italiane, annunciata dal Ministero dell'Economia, conferma l'intenzione del governo di rilanciare le privatizzazioni delle grandi società pubbliche. Non è un caso che questa accelerazione arrivi a pochi giorni dall'ennesimo invito della Commissione europea sulla necessità di completare il piano di privatizzazioni. D'altra parte, l'Italia si è impegnata a ridurre il debito pubblico. L'obiettivo per il 2016 è di avere un debito pubblico al 132,4% del PIL. Bruxelles non è convinta che si riesca a raggiungere questo obiettivo. Da qui l'insistenza sulle privatizzazioni, perché, come sappiamo, i proventi della vendita delle società pubbliche saranno destinati appunto alla riduzione del debito. Pochi giorni fa il ministro Padoan ha confermato a Bruxelles la volontà di raggiungere nel 2016 l'obiettivo di privatizzazioni pari allo 0,5% del PIL. Su quali operazioni si punta? Beh, su Poste Italiane innanzitutto, con il conferimento alla Cassa Depositi e Prestiti del 35% della società e poi con il collocamento in borsa di un altro 29,7% del capitale. L'altra operazione di cui si parla è il collocamento in borsa del 49% del capitale di ENAV, la società pubblica per il controllo del traffico aereo civile. In totale queste due operazioni porterebbero circa 7 miliardi di euro necessari per ridurre il debito e per mantenere gli impegni presi con Bruxelles. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.